deciso di smettere. Me le fa anche pagare, e invece questo fa morire, questo fa un tumore, questo fa cose come. Quindi non fumate per non dare i soldi allo Stato. Sto Stato, questo è stato Caino, Caino. Va bene. Ciao.